Bentornati, questa è Radio Prisma, la numero 11, Back and Forth, avanti e indietro. Buon ascolto. Wir fahren auf der Autobahn. Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Jetzt schalten wir das Radio an. Aus dem Lautsprecher klingt es dann. A noi si distende una vallata larga, il sole brilla con raggi sfavillanti. La strada è un nastro grigio con strisce bianche e bordo verde. Ora accendiamo la radio. Dall'altoparlante escono i suoni. Non è mia questa, è la traduzione del testo tedesco di Autobahn dei Kraftwerk. E quando si è proiettati senza tempo, fuori dalla propria dimensione quotidiana, lungo un'autostrada, per scoprire spazi nuovi che in qualche modo ci danno anche modo di riconoscerci, beh, la radio forse è l'unica compagnia di cui abbiamo davvero bisogno. Questa è Radio di Felt, da Jamendo.com. Thank you. All'improvviso arriva la pioggia, temporali violenti che sanno di oceano, e ti chiedi dove diavolo stai andando. Dire Straits, where do you think you're going? Where do you think you're going? Don't you know it's dark outside? Where do you think you're going? Don't you care about my pride? Where do you think you're going? I think you don't know. You got no way of knowing. There's really no place you can go. Understand your changes long before you reach the door. I know where you think you're going. I know what you came here for. And now I'm sick of joking. You know I like you to be free. Where do you think you're going? I think you better go with me. Doubt me that you ain't with me, girl. You're gonna be without me. Where do you think you're going? Don't you know it's dark outside? Where do you think you're going? I didn't care about my pride. And now I'm sick of joking. You know I like it to be free, girl. Now where do you think you're going? I think you better go with me, girl. Come on. Strada che va, le ruote che mangiano l'asfalto. Non sono sola, accanto a me c'è un'altra anima. Eppure la solitudine in qualche modo fa parte di me, e non sono rari quei momenti in cui cala quel silenzio quasi fisiologico che in pochi riescono a sopportare. Fra questi, poche anime speciali che non temono il mio silenzio e sono molto meglio di me, perché a volte il silenzio mi fa davvero paura, non il mio quanto quello degli altri, perché si teme sempre di aver fatto o detto qualcosa di sbagliato, di in qualche modo essere causa dei cambiamenti d'umore dell'altra persona, mentre spesso si tratta soltanto di quei momenti in cui la mente vuole soltanto viaggiare libera, avanti e indietro, back and forth. Ed è questo in fondo l'egocentrismo contro cui mi scaglio, quello che mi porta a pensare di essere io sempre e comunque la causa degli sbalzi d'umore altrui. A volte basta soltanto spegnere questa vocina nel cervello che continua a ripeterci che abbiamo sbagliato qualcosa, che sicuramente non siamo adeguati. Basterà mettere l'interruttore su off, mandare quella dannata vocina al diavolo e dare fiducia a se stessi e all'altra persona, che in fondo, se davvero c'è un forte legame, non sarà certo il silenzio a scalfirlo. Questi sono i Wilco con How to Fight Loneliness. Thank you. una ricetta per sconfiggere la solitudine, secondo me non l'hanno ancora inventata. Che non è poi, come dico sempre, circondarsi di tante persone, insomma, come banalmente si potrebbe pensare. La solitudine in realtà entra dentro di noi o dalla nascita o in qualche fase particolarmente dura della nostra vita in cui in qualche modo si può fare appello soltanto a noi stessi e talvolta non si può contare neanche sull'aiuto della propria famiglia, dei propri genitori, che sono coloro che invece vorrebbero il nostro bene. Perché a volte si diventa noi genitori per loro e in qualche modo si viene privati di una parte di spensieratezza che si rincorrerà poi per il resto dei propri giorni. E quindi quel lato un po' oscuro, quel lato che ci porta a chiuderci a riccio quando invece avremo più bisogno degli altri, è come un sistema di protezione, un'autodifesa che scatta automatica. Perché ci sono quei giorni in cui la rabbia che si è accumulato è talmente tanta che oltre a far male a se stessi si ha paura di farne anche agli altri. Spesso ci si riesce anche, perché non sono solo parole fuori luogo a provocare negli altri dolore di rimando, a volte è anche un silenzio, una porta chiusa in faccia che l'altra persona non riesce a interpretare, che provoca una chiusura. Eppure mi direte, com'è nera questa immagine? C'è una via d'uscita a tutto questo? Non credo che la solitudine si possa sconfiggere. Secondo me alcuni di noi dovranno renderla una presenza un po' meno nemica e quindi, come dire, ballare con il proprio demone se proprio non si riesce a stenderlo. Per ora godetevi questa When You Drive dei Chroma Key. Io personalmente non guido, mi lascio guidare, almeno in macchina. Però a volte quell'abitacolo metallico che ci può portare a migliaia di chilometri di distanza dai nostri posti abituali può regalarci davvero l'illusione di un'altra dimensione. When you drive, you practice mindfulness of driving. It is possible. When you stop at the red light, look at the red light and smile. Peace, joy, happiness. breathe out, I smash. Avere voglia di arrivare non è soltanto la voglia di raggiungere una meta fisica. Quello che si vuole fare spesso è uscire da se stessi, diventare un'altra persona. E se invece si volesse ritrovare la persona che siamo stati? Se questa persona esistesse ancora nascosta da qualche parte dentro di noi, magari stesse soltanto aspettando una mano tesa per uscire dal suo angoletto, dal suo cantuccio. Beh, quello che ho capito è che per quante mani possano avvicinarsi a noi, soltanto una avrà il potere reale di tirarci fuori dal nostro angolo buio. Non serve dirvi di chi deve essere questa mano. Questa è This Must Be the Place, The Talking Heads. Ed è la frase che spero un giorno di poter dire quando la home sarà veramente la mia. You got light in your eyes. Non sono rari quei momenti in cui, dopo una curva cieca, si apre all'improvviso uno spettacolo inaspettato. Lo spettacolo di noi stessi, di quello che non ci aspettavamo di poter fare mai nella vita. E alla fine rendersi conto che poi non ci voleva così tanto. Sì, si continuerà a tornare sempre avanti e indietro, e quella persona sorridente che abbiamo intravisto allo specchio nei giorni spensierati che la vita ci ha concesso, che ci siamo concessi, potrebbe sparire, lasciando di nuovo il posto al nostro essere ingrigito, arrabbiato, corrucciato. Eppure lo specchio non è un quadro, l'immagine continuerà sempre a cambiare, se noi lo vorremo. Ci sono giorni in cui il nostro cuore batte in automatico, tic-tac, come una sveglia, ci dà l'impressione di essere soltanto delle macchine, dei robottini lanciati nel vortice di stupide attività quotidiane. Ebbene, non siamo delle macchine, no, anche se a volte lo diventiamo. Godetevi questa Tic-Tac Goes My Automatic Heart di Get Well Soon. Un grande, vi consiglio di approfondirlo se potete. And then the sky cleared up and everything you said became true to me. Everything is green in the springtime, a new life for everyone. To the beat of my automatic heart, you sing a song of life. We let it all go by on this Easter day. Divide us again. On the tree above sings a yellow bird of things from far away that we don't need. And to the beat of my automatic heart, you sing a song of life. Thank you. Pace, a volte si avrebbe solo bisogno di un po' di pace. Pace dagli impegni quotidiani, pace dalle incombenze del diventare grandi, pace dal giudice interiore che punta il dito contro di noi e ci inchioda le nostre responsabilità, le nostre insicurezze, il nostro volere essere perfetti. Coprirci d'oro, immergerci in un lago di wet gold. Questi sono i The Octopus Project. Enjoy. Un pezzo di cuore l'ho lasciato là, attaccato a quelle rocce di granito rosa, a picco sull'oceano. Il vento en tourbillon smuoveva capelli e pensieri lungo la rotta dei doganieri. E non c'erano più le frotte di turisti, le loro macchine fotografiche, i passi cadenzati. Quel luogo era lì, solo per me. Un divano di pietra affacciato sul mare e la voglia di restare seduta lì, per sempre. Non c'è tempo per fermarsi, il temporale incombe e anche l'imbrunire. Altro giro, altra corsa, mangio l'Europa a morsi. La storia rientra dalla finestra, un fortino conserva nelle fredde e umide grotte cimelie e testimonianze di guerra. I nazisti, gli alleati, la linea Maginot, la base sottomarina tedesca, il cordone atlantico, 165 bombardamenti in 3 anni, una città rasa al suolo. Il vagone merci, la deportazione, corpi ammassati gli uni sugli altri, senza aria, cibo né acqua. 4 giorni di viaggio, destinazione morte. Uomini contro altri uomini. La violenza, l'abbrutimento, gli esperimenti su cavie umane. Il gelo, le amputazioni, le camere a gas, la speranza che serpeggia. Nonostante tutto, un orrore che conoscevo già. E che non smette di colpirmi forte nello stomaco, ogni volta. Come si può arrivare a tanto? Quanti anni sono passati da quei giorni infernali? 70 anni. Niente. Era ieri. Orrori simili continuano ancora a ripetersi nel mondo. Non finirà mai. Fino alla prossima guerra fratricida. al prossimo genocidio. Sign of the Times. Il pleuve sans cesse sur Brest ce jour-là. Rappelle-toi, Barbara. Non smette di piovere neanche adesso e io non sono Barbara. Nemmeno le somiglio, credo. Radici lontane, parenti sconosciuti, non miei. Il dubbio di poter camminare accanto a qualcuno che porta dentro di sé il tuo stesso sangue. Individui che si incrociano, senza riconoscersi. Non so nemmeno io chi sono. Che avete appena ascoltato erano i Baba Mars con il brano Eraser Ace. Il testo che avete sentito prima del pezzo era ovviamente frutto della mia mente bacata, e questa puntata che va, diciamo, a concludersi, spero vi sia piaciuta, anche se ho notato, insomma, un po' malinconica, direte ammazza che novità. Lo so, no, la mia vena malinconica esce sempre fuori, soprattutto quando si è in pieno stress da rientro. Dice beata te che sei partita, dice tanti di noi siamo rimasti bloccati a causa delle esigue finanze. Beh, sì, diciamo che sono abbastanza organizzata e che anche, ecco, con pochi euro, come si dice da queste parti, si riesce in qualche modo a mozzicare un po' d'Europa ogni tanto. Sono disposta a rinunciare a tante cose, ma non al mio pezzo di home sparsa per l'Europa. Voglio intanto salutare i vari DJ di Radio Pazza, radiopazza.blogspot.com, quindi DJ Buck, DJ Grex, DJ Falena e DJ mio che latita da un po'. E poi vorrei salutare anche i nuovi arrivi, quindi Ro e Nicole, e fare loro i miei complimenti per come si stanno misurando con la web radio. E quindi, ecco, a chi ha fondato la radio, quindi Buck e Grex, se vi fischiano le orecchie sono io, potete ritenervi davvero orgogliosi, perché insomma sempre più persone si stanno unendo a questa avventura. E la pianto con questi convenevoli, noiosi e peraltro inutili, no scherzo. E vi lascio con un pezzo degli Animal Collective, Winter Love. Alla prossima. In a dream, I was a werewolf. I was a werewolf. pensavo alle parole della canzone del compositore del Sebate, Antonello Venditti. La canzone si chiama La Sora Rosa. La Sora Rosa, me ne vado via, c'ho il cuore a pezzi per la vergogna di questa terra che non m'aiuta mai, di questa gente che te sputa in faccia, che non ha mai preso una farce in mano, che si distingue per una cravatta. Me ne voglio andare da sto paese marcio, che c'ha i buchi al posto del cervello, che va a mangiare sull'ossa di chi soffre, che pensa solo al posto che può perdere. C'avemo forza e voglia più di tutti, andiamo là dove ci stanno i morti, anche se siamo due ossa dei prosciutti, ci vederà chi c'ha gli occhioni sani, che ci dirà venite giù all'inferno, almeno ci avrete il fuoco per l'inverno. Se c'hai un cuore tu ne puoi capire, se c'hai un amore tu ne puoi seguire, che ce ne frega se non contiamo niente, se siamo sotto i calli della gente. Che te dico, io mo me butto al fiume, così finisco de campasta vita, che a poco m'ha succato occhi, più delle pene de Satana è le ossa che so sante.